Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che domani e anche lunedì chiaramente la borsa è chiusa, quindi ultima seduta della settimana oggi per Piazza Affari, più 0,28%, positiva anche Parigi, più 0,90%, Francoforte più 0,36%, Londra più 0,80%, gli Stati Uniti più 0,32%. In questo momento euro di nuovo a quota 1,28. Poco mosso il listino oggi rispetto a quello a cui ci ha abituato nei giorni scorsi, meno male anche. UbiBanca più 4%, Popolare Emilia Romagna più 3,5%, Unicredit più 1,90% e l'1,50% lo guadagna Intesa San Paolo, ma anche il Banco Popolare e Tenaris. Enel, Green Power più 1,30% come Azimut e Tods, ma anche Telecom Italia. L'1,20% lo guadagna infine Telecom Italia, adesso è 1,30%, scusatemi, Mediobanca dicevo più 1,20%, Parmalat più 1%. Chi perde invece in borsa? Prismian meno 2,90%, Mediaset meno 1,80%, ST Microelectronics meno 1,70%, 1,5% lo cede sia Buzzi, Unicem, Kensaldo, STS, ma anche Finmeccanica e Lottomatica. 1% percentuale invece del calo di Terna e di Saipem. Ma di cosa ci occuperemo oggi? Beh, in attesa di capire, ma dovrebbe essere dopo le 18, il momento in cui il segretario del PD Bersani salirà al Quirinale, per il nulla di fatto nel tentativo di trovare una maggioranza parlamentare. Vedremo se poi questa notizia entrerà durante la diretta di Focus Economia, ma oggi ci occupiamo di altre amenità, si fa per dire. Perché lo dico? Perché da un lato ci collegheremo con Cipro, dove oggi hanno riaperto le banche mentre la borsa resterà chiusa e riaprirà a questo punto dopo il fine settimana. Lunghe file agli sportelli, 300 euro giornalieri massimo quello che si può prelevare al bancomato agli sportelli bancari e 5.000 euro al mese il massimo, il tetto massimo ai bonifici bancari al mese. E ancora limite di 10.000 euro per i pagamenti delle tasse universitarie all'estero, tutti i pagamenti dovranno essere approvati dalle autorità cipriote e i ciprioti dovranno dichiarare ogni somma di denaro che ricevono dall'estero. E poi ancora sono arrivati a Cipro dall'Europa 4 container contenenti in tutto 5 miliardi di euro, 4 container, per garantire la liquidità alle banche cipriote. Di questo parleremo, ma parleremo anche delle bollette italiane, perché da aprile le bollette dell'energia elettrica diminuiranno, attendiamo il comunicato dell'Authority e l'Autorità per l'Energia, dovremo avere in collegamento l'esponente entro i prossimi 20 minuti, 25 minuti, comunque un calo delle bollette dell'energia elettrica e un calo anche delle bollette del gas, più consistente il calo di quelle del gas rispetto a quella dell'energia elettrica, con un risparmio complessivo di circa 60 euro all'anno. Mi rendo conto che non sia moltissimo, ma è sempre meglio che niente, e anche di questo parleremo. Poi la vicenda che sta creando numerose polemiche, ossia la TARES, la nuova tassa sui rifiuti, che avrà, come quando verrà applicata, un rincaro medio del 290% e per alcune attività incremento dei costi superiore al 400%, pensiamo alla ristorazione e altri esercizi commerciali, e addirittura al 600% nel caso dell'ortofrutta e delle discoteche. Tutti questi dati emergono da un'elaborazione della Confcommercio che chiede di sospendere immediatamente l'operatività prorogando l'entrata in vigore della TARES almeno fino al 1 gennaio del 2014. Il Sole 24 Ore oggi ha fatto una simulazione, insomma i numeri sono abbastanza impressionanti. Per l'ex tassa rifiuti, se prima si pagava la TARSU appunto in un appartamento da 120 metri quadri era più o meno sui 360 euro, la TARES sarà 414, e per un negozio non alimentare da 300 metri quadri la TARSU passerà da 2.730 euro a 2.960, per un capannone industriale 2000 metri quadrati da 8.740 a 9.812, tant'è che anche ieri il leader della CGIL Susanna Camusso ha detto: attenzione, a giugno c'è un concentrato di scadenze fiscali che può diventare esplosivo per le persone, IMU, TARES e lo scatto di un altro punto di IVA, che non è una scadenza fiscale, ma questo può comportare chiaramente un ulteriore calo e botta e batosta sui consumi. Ancora, per quello che riguarda i temi di cui ci occuperemo, anche le notizie che riguardano i costi della politica, e un'esclusiva che ha avuto Radio 24 sul PD, è presente anche sul nostro sito, andate sul sito Radio 24. Insomma, il PD ha messo a punto, siamo stati in grado di avere i documenti in maniera esclusiva, un piano di ristrutturazione di Lacrime e Sangue in previsione, si legge nel documento redatto dal tesoriere Antonio Misiani, in previsione del superamento del finanziamento pubblico dei partiti. Una lettera inviata a tutti i 200 dipendenti, a circa 200 dipendenti del PD, la chiusura di alcune sedi, via del Tritone, e poi entro il mese di aprile il budget assegnato dalla segreteria nazionale ai giovani democratici sarà ridotto del 75%, non vi saranno budget assegnati ai forum, i contratti riguarderanno anche i fornitori di UDEM e del PD, insomma tutto un insieme di tagli, l'azzeramento di chi ha un arretrato ferie superiore ai 40 giorni, cioè la parte eccedente ai 40 giorni verrà di ferie arretrate, verrà sostanzialmente azzerata e non saranno più concessi gli autorizzati gli straordinari. Ne parliamo perché è un tentativo, evidentemente anche nel PD, di avere minor costi fissi. C'è dall'altro una notizia, anche di una buona notizia che riguarda invece anche il giro di vite per tutti i deputati della Camera dei Deputati, i vertici della Camera dei Deputati. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Facebook pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che è stato rivisto leggermente al rialzo il PIL americano nell'ultimo trimestre del 2012, più 0,1 contro un meno 0,1%, cioè da un più 0,1% a un più 0,4%, e invece all'ONU, quindi nello storico Palazzo di Vetro, siamo al rush finale dei negoziati per arrivare all'accordo sul primo trattato internazionale che regoli la compravendita di armi, il giro d'affari di circa 400 miliardi di dollari l'anno. Secondo fonti diplomatiche, infatti, gli Stati Uniti avrebbero finalmente acconsentito a firmare il documento, mentre rimane dubbia la posizione di altri paesi come Iran, Siria, Egitto o India. E abbiamo bisogno di un trattato che comprenda tutte le armi convenzionali, non solo alcune di esse, ha commentato il capo di Oxfam, che è una delle principali organizzazioni non profit a livello mondiale, e mi riferisco a Anna McDonald. Solo così si potrà fare la differenza per milioni di persone vittime della violenza in paesi come Siria, Mali o Congo. Volete sapere di Cipro? Ci arriviamo tra poco. Anche il Presidente della Repubblica di Cipro si è tagliato lo stipendio del 25%, ma faccio notare che secondo i dati della Banca Centrale Europea i depositi bancari presso le banche di Cipro sono diminuiti del 4,5% lo scorso febbraio, per contro sono cresciuti del 6,5% quelli in Lussemburgo. E secondo la Banca Centrale di Cipro, da inizio anno sono già scappati dal paese 2 miliardi e 700 milioni di euro. Oh, e ti pareva che il falco tedesco Wolfgang Schäuble non volesse difendere il leader dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem, con la sua frase mitica quando ha detto: beh, il modello Cipro dei prelievi forzosi sui conti correnti potrebbe essere applicato anche per altre crisi bancarie in Europa, scatenando il panico lunedì. Perché? Perché, insomma, falco non mangia falco, potremmo dire. E Schäuble, che è ministro tedesco delle finanze, ha detto: credo sia stato frainteso. Dijsselbloem ha detto quello che tutti ripetono dal 2008, secondo Schäuble. Chi ha un credito nei confronti di qualcuno che non è in grado di pagare può anche perdere dei soldi. E poi Schäuble ha anche respinto le critiche del ministro lussemburghese a Selborn. Nessuno se non lui ha paragonato Cipro a Lussemburgo. Però è interessante che oggi il sito di Handelsblatt, che è appunto il Sole 24 Ore tedesco, apra con il titolo: la Banca Centrale Europea invia a Cipro gli euro della Bundesbank. Ma come fanno a sapere che sono della Bundesbank? Ma chiedo, come, gli euro sono euro? È vero che c'è un riconoscimento nazionale, ma detto così sembra che paghino i tedeschi per Cipro. Ancora, il Fondo Monetario Internazionale su Cipro dice: il caso è unico e sarebbe difficile estendere tale situazione in Europa e nel resto del mondo, e vorrei anche vedere. E poi sull'Italia ha detto il portavoce Jerry Rice: in generale avere un governo stabile, fin qua siamo alla scoperta dell'acqua calda. Però, ripeto, non tutte le banche vengono salvate nello stesso modo. In Olanda, ma anche in Germania, in Francia, sono state salvate con tanti soldi dei contribuenti, poi ridati, per carità. Ma pensate che in Belgio, per esempio, il salvataggio della banca Dexia ha portato il deficit del Belgio per il 2012 al 3,9%. E lo ha comunicato la stessa banca centrale belga dopo che è stata respinta dall'Unione Europea la richiesta dello Stato belga di non contabilizzare questi aiuti dati ad Dexia per ricapitalizzarla nel deficit, e il Belgio così sfora l'obiettivo di stare sotto il 3%. Era di pochissimo sotto, senza il salvataggio di Dexia era il 2,96%. E poi il rapporto dell'OCSE: ci sono buoni argomenti per rendere la politica monetaria ancora più accomodante in Europa, visto quindi un po' di iniezioni di capitali, immagino, perché i tassi ormai sono all'1%, stampare moneta non so cosa voglia dire più accomodante in questo caso, vista la domanda debole e l'inflazione ben al di sotto degli obiettivi della Banca Centrale Europea. Quindi anche l'OCSE certifica: non è l'inflazione in questo momento il problema dell'area euro, e quindi non è un problema della Banca Centrale, perché sotto la stima, diciamo, e gli obiettivi della Banca Centrale Europea stessa. Dunque, c'è chi scrive che io sono un campione nell'insabbiare le notizie negative in economia. Vabbè, mi dica quali ho insabbiato oggi e poi le leggo, se sono vere, se le abbiamo. E ancora, per quello che riguarda invece il rapporto dell'OCSE, l'OCSE scrive che la crisi di Cipro è un caso eccezionale. E poi va avanti dicendo: ci sono divergenze nell'area euro, anzi tra la crescita in Germania, che probabilmente ripartirà con forza nei primi due trimestri del 2013, e quella di altri paesi dove invece la crescita resterà lenta o negativa. Secondo l'OCSE il PIL di Berlino nei primi tre mesi farà un più 2,3% e poi un più 2,6% nel secondo trimestre, mentre in Francia, che è l'altro paese dell'euro nel gruppo dei G7, dicevo insieme all'Italia, chiaramente alla Germania, in Francia farà un meno 0,6% nel primo trimestre e più 0,5% nel secondo trimestre. Purtroppo nei G7 l'Italia sarà l'unico paese che continuerà a calare anche nel secondo trimestre quanto a PIL. Il vice segretario generale dell'OCSE, nostro ospite più di una volta, Piercarlo Padoan, ha detto: per l'economia italiana si conferma una crescita generalmente negativa quest'anno, è però una recessione che sta arrivando alla fine e ci aspettiamo un ritorno alla crescita positivo tra fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo. Ancora, invece, le stime della Banca d'Italia sono un po' più ottimistiche sul 2014, però rispetto all'OCSE, ma dice la Banca d'Italia che a essere troppo ottimista è il governo, per oltre mezzo punto percentuale. Le stime 2013 invece del governo, meno 1,3%, sono sostanzialmente in linea con quelle della Commissione europea. E poi la Banca d'Italia ci fa sapere che i debiti della pubblica amministrazione, cioè i soldi che deve ancora le imprese che hanno già fornito servizi o beni, sono praticamente hanno toccato quota 90 miliardi di euro a fine del 2011, ossia quasi il 6% del PIL, il 5,8%. E dice la Banca d'Italia, attenzione, non bastano i 40 miliardi ipotizzati dal governo come rimborso per i pagamenti della pubblica amministrazione, si arriverebbe al massimo a 2/3 del totale. Io aggiungo, ma se tanto si iniziasse sarebbe già qualcosa. E ancora il MEC, sempre la Banca d'Italia, il meccanismo di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione ha avuto fino ad oggi un'efficacia limitata. A fronte dello stanziamento di 2 miliardi per il pagamento mediante titoli di Stato, le effettive emissioni sono state pari solo a 15 milioni. Con un 10% del totale dei debiti della pubblica amministrazione, ripeto 90 miliardi, ceduto a intermediari finanziari con la clausola pro soluto, e pertanto già incluso nel debito pubblico. E comunque la Banca d'Italia dice che la riduzione dei debiti della pubblica amministrazione potrà migliorare le condizioni finanziarie di molte imprese ed essere di stimolo alla crescita dell'economia. Più scettico invece la stima e l'opinione del presidente dell'Istat Enrico Giovannini, che dice: l'effetto del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione è estremamente contenuto, un decimale, quindi lo 0,1 come aumento del PIL nel 2013. Quanto al nostro deficit, oggi il ministro dell'economia Vittorio Grilli in audizione al Parlamento ha detto che il tetto del 3% nel deficit è un tetto invalicabile, che l'obiettivo comunque di un saldo strutturale dovrebbe comunque essere raggiunto e che occorre immettere liquidità nell'economia italiana per stimolare la ripresa, e il provvedimento per pagare i debiti della pubblica amministrazione serve proprio a immettere liquidità nel sistema economico e a far ripartire più rapidamente la domanda interna già da metà dell'anno in corso. Prima i pagamenti devono andare alle aziende e in ordine cronologico, ha detto Grilli, in due fasi: prima i soggetti non finanziari, quindi le aziende, le imprese, poi le banche. Mi sembra importante sottolineare che a mio avviso sarebbe pericoloso introdurre un principio che le banche non vengano pagate, perché se introduciamo il principio che se una banca, diciamo così, sconta una fattura, la banca non verrà pagata, il sistema di factoring e quindi la potenzialità per le imprese di ricevere credito dalle banche sparisce, ovviamente. Però penso che sia possibile, e direi che col sistema bancario abbiamo già avuto una serie di interlocuzioni positive, pensare a una sequenza e quindi pensare in via prioritaria di dare liquidità innanzitutto alle imprese e in seconda battuta alle banche. Sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, dreghe più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, dreghe più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu. E in realtà oggi il nostro appuntamento è un appuntamento positivo. Perché? Perché da un lato i vertici della Camera, il Presidente, i Vicepresidenti e i Questori hanno deciso di rinunciare agli appartamenti di servizio e arriva anche un giro di vite sull'utilizzo del parco auto. Lo ha deciso l'ufficio di Presidenza di Montecitorio. Un commento su questo, la nostra Elisabetta Fiorito lo ha chiesto a Luigi Di Maio, Vicepresidente della Camera dei Deputati, che appartiene al Movimento 5 Stelle, il quale ha detto bene, ma tanto io continuerò a girare in bicicletta. Sono stati tagliati gli alloggi per le cariche dell'ufficio di presidenza che ne avevano diritto. Io personalmente avevo già comunicato che non l'avrei comunque utilizzato, non ne me ne sarei avvalso. Per quanto riguarda invece le auto istituzionali, le cosiddette auto blu, si è deciso solo di limitare il raggio di utilizzo all'interno del comune di Roma. Questo per noi ha destato qualche perplessità, perché a maggior ragione che bisogna utilizzare queste 10 autovetture soltanto all'interno del comune di Roma, si poteva benissimo farne a meno per le cariche dell'ufficio di presidenza e lasciarle solo una alla presidenza della Camera e quindi alla presidente Boldrini. Abbiamo proposto questo, la proposta non è passata, ci è stato detto che c'è bisogno di un decoro istituzionale. Non crediamo che il decoro istituzionale però derivi dall'utilizzo di un'auto blu, bensì anzi forse potrebbe essere ancora più decoro istituzionale per i vicepresidenti, presidenti, i questori e i segretari utilizzare i tassi, i mezzi pubblici. Potrebbe essere un bel segnale da dare ai cittadini e poi comporterebbe un risparmio economico. Ma lei adesso sarà costretto a usare l'auto blu per Roma, come si muoverà? Assolutamente, io chiederò e spero che sarà così, che l'ufficio del cerimoniale e la Camera dei Deputati tutta mi faccia sapere per tempo i miei appuntamenti, in modo tale che io possa organizzare con i mezzi pubblici, ma anche con un tassì, i miei spostamenti. Rinunciare alle auto di servizio, visto che non ci sono questioni di sicurezza per quanto riguarda i vicepresidenti, per quanto riguarda i segretari e i questori, rinunciare alle auto di servizio è un segnale ed è un primo risparmio economico. Se tagliamo un po' ovunque, mettiamo insieme un risparmio. Se invece iniziamo a dire che ogni risparmio, ogni taglio è irrisorio, alla fine non mettiamo insieme nessun risparmio. Auto blu, sangue blu, cieli blu. Beh, non ha tutti i torti, sì, perché il ragionamento è ma è ben altro il problema, il benaltrismo poi ti porta a non fare nulla. Questo nel giorno in cui abbiamo scoperto che da inizio 2010 al settembre del 2012 gli italiani sono letteralmente fuggiti dagli investimenti finanziari, 715 miliardi di investimenti in meno, da 1269, quindi meno 36%. Però dicevo, c'è un'altra buona notizia, quella che trovate sul nostro sito, poi se ne occuperà anche la Zanzara, che l'ha scovata, ossia il PD ha messo a punto un piano di ristrutturazione lacrime e sangue. In previsione del superamento del finanziamento pubblico dei partiti, si legge nel documento che Radio 24 in esclusiva ha avuto modo di vedere, scritto dal tesoriere del PD Antonio Misani a circa 200 dipendenti, e ha detto verranno attuati un insieme di interventi tra cui la razionalizzazione delle spese, la chiusura delle sedi di via Tritone 87-169 nel mese di aprile, i budget assegnati alla segreteria nazionale e ai giovani democratici saranno ridotti del 75% rispetto al 2012 e non saranno assegnati budget ai forum. I tagli riguarderanno anche i contratti con il fornitore del PD e di UDEM, che è la TV del partito, e una serie di servizi quali auto, auto blu senza conducente, con conducente a noleggio, e poi giornali, viaggi ed altro. Poi interventi anche sul personale. Applicazione immediata della norma del contratto che prevede il limite di 18 mesi per usufruire delle ferie, e dalla prossima busta paga saranno azzerate tutte le ferie superiori ai 40 giorni, e poi non saranno più autorizzati gli straordinari. Allora, l'applauso era un invito, è un applauso propiziatorio, perché poi vorremmo vedere che questa lettera del tesoriere Antonio Misiani, vorremmo vederla trasformarsi in un documento finale, e quindi che questi tagli possano partire. Così come, lo dico molto tranquillamente, ma insomma anche l'annuncio della Camera oggi è un buon annuncio. Io sull'idea che i presidenti della Camera e i vicepresidenti non debbano avere un'auto blu per un decoro istituzionale, potrei anche essere d'accordo, lo fanno tutti gli altri paesi, però poi basta, non tutto il resto delle prebende che vediamo esistere sia al Senato che alla Camera. Adesso c'è il meteo e la pubblicità, poi la borsa che ha chiuso bene, oddio, meno 0,10, insomma, invariata, guadagnava di più a inizio seduta e poi sopra tutto fino a un'ora fa. Parleremo anche di borsa, ma anche, visto che molti ce lo chiedono, di questa nuova tassa dei rifiuti che sta facendo preoccupare e infuriare soprattutto la Confcommercio. Leggevamo prima la stima dell'impatto che avrà una nuova norma sui rifiuti, con in alcuni casi anche un raddoppio di quello che è il costo per i singoli cittadini. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso occupiamoci di una notizia praticamente appena battuta, nel senso che l'embargo, come si dice in gergo, è appena terminato. Mi riferisco alle bollette del gas e dell'elettricità. Perché da aprile le bollette dovrebbero diminuire dell'1%, che va a sommarsi all'1,4% di gennaio, e quelle del gas del 4,2%, un risparmio medio di 5 euro per l'energia elettrica e 55 euro per il gas. Dovrebbe diminuire anche il prezzo del GPL. Chiedo conferma ad Alberto Biancardi, economista e componente dell'autorità per l'energia elettrica e il gas. Buonasera. Buonasera. Allora, ecco, come mai calano? Perché di solito... Calano, diciamo, per il primo motivo, è perché finalmente sta entrando in vigore a tutti gli effetti la riforma che abbiamo messo a punto del sistema gas. Il mercato gas comincia a funzionare bene e gli effetti del nuovo sistema di bilanciamento si riverberano sulle tariffe del gas, ma poi, tenuto conto che il gas è la materia con cui noi produciamo gran parte dell'energia elettrica che consumiamo, c'è un effetto a catena positivo anche sul prezzo dell'energia elettrica. Questo direi che è il motivo rilevante che possiamo con soddisfazione annunciare. Ecco, è la prima riduzione così forte dopo 3 anni del prezzo della bolletta del gas. Noi sappiamo che il gas però segue come prezzo anche il petrolio. Non ho visto un calo così forte del gas. Lei dice del prezzo del petrolio, quindi anche del gas. Lei dice che quindi è dovuto anche a un nuovo mercato che si è creato? Sì, diciamo che innanzitutto noi registriamo sempre di più una quota di gas comprato e venduto sul mercato internazionale che è svincolato dai contratti di lungo periodo, e questo adesso sta avendo un effetto positivo perché il prezzo spot cosiddetto ha delle logiche diverse che oggi fanno sì appunto che si ripercuotono in prezzi più bassi. Ma poi più in generale c'è anche il fatto che abbiamo un sistema più ordinato, un sistema dove la legge della domanda e dell'offerta riesce a esprimere dei prezzi più precisi e non semplicemente porta un prezzo indicizzato al petrolio sul consumatore finale, quindi se, come anche adesso sta capitando purtroppo, sotto certi aspetti la domanda è in una fase di calo o comunque c'è una debolezza congiunturale, il prezzo scende indipendentemente, ripeto, da quelle che sono le formule di indicizzazione. E infatti si arriverà, se ho ben capito, entro fine anno ad un calo di almeno il 7% della bolletta del gas? Poi... Sì, anche se immagino che si capisca bene che come regolatore abbiamo una prudenza, certo, dovuta a dare queste previsioni, gli effetti comunque, visto il differenziale che oggi c'è fra prezzi spot e prezzi dei contratti take or pay, e che ci saranno rinegoziazioni dei contratti take or pay, una stima direi prudenziale ci induce a dire che almeno il 7% sarà, no, l'effetto di diminuzione sul prezzo del gas. Ecco, voi tra l'altro avete introdotto come novità, appunto lei vi accennava anche prima, il maggior peso che date ai prezzi spot rispetto, sì, a quelli dei contratti pluriennali, cioè spot uno va a comprarlo sul mercato, diciamo, sì, pluriennale, sì, sì, si mette d'accordo per avere un certo numero di gas, quantità di gas per un certo numero di anni, perché sono più favorevoli, e ho visto, sì, che l'incidenza dei prezzi spot è aumentata dal 5 al 20%, quindi nel breve termine noi spot vuol dire appunto compra, offri e compra. Nel breve termine noi abbiamo circa, compriamo circa il 20% del gas e l'80% sì, è di lungo termine, giusto? Esattamente, esattamente. Questo è una riforma che stiamo conducendo e che continueremo per seguire. Abbiamo già avviato le consultazioni, ci stiamo confrontando con gli operatori, anche col governo. Ci sono anche dei fattori di gradualità che noi siamo tenuti a rispettare per garantire il bilancio delle imprese operanti. Questo lo stiamo facendo col Ministero dello Sviluppo Economico in particolare, però ecco, abbiamo, come lei ha detto correttamente, aumentato la quota di spot nella formula di prezzo pagata dal consumatore finale, l'abbiamo portata dal 5 al 20%. Questo è un altro punto che sta dando, no, soddisfazione ai consumatori. Ecco, le giro una domanda che fanno molti ascoltatori sia su Facebook che al 349-238-6666. Dicono, vabbè, bene, anche perché poi a giugno, se tanto mi dà tanto, arriverà la stangata dell'IVA, Susanna Camus lo ricordava ieri, IVA, tassa dei rifiuti, la nuova tassa dei rifiuti di cui ci occuperemo dopo, e altre simpatiche amenità. Però, bene quindi che vi sia una diminuzione della bolletta del gas e dell'elettricità. Molti ascoltatori dicono, beh, facile farlo adesso che non bisogna più riscaldare le case, cioè che è finito l'inverno. C'entra qualcosa? E in autunno temono aumenterà di nuovo la bolletta. Beh, no, adesso... Sono un po' maliziosi. Sì, no, beh, sì, ma è giusto. Allora, è chiaro che c'è più spazio cioè nella diminuzione in mesi come questi, ma noi terremo questi livelli, anzi è per quello che ci sentiamo di dire che ci sarà una diminuzione ulteriore, e la diminuzione che andremo ad annunciare ogni trimestre andrà sempre più verso i mesi invernali, e quindi io penso che tranquillamente possiamo già dire che non avremo un effetto rimbalzo. Ovviamente, come le dicevo prima, non sarebbe corretto impegnarsi per dei prezzi su un periodo troppo lungo, ma noi stiamo già dicendo entro la fine dell'anno. Cioè, quindi il 7% di calo complessivo riguarderà entro dicembre, diciamo. Sì, sì, sì. Bene, ci auguriamo appunto che sia così, perché ripeto, tra IMU, TARES e poi l'IVA, a giugno arriverà una stangata, almeno un minimo di controbilanciamento. Non è tantissimo, ripeto, 60 euro su base annua il risparmio per il gas, che con un calo del 4-2%, però dovrebbe essere anche più interessante, dovrebbe arrivare a 90 euro con il calo del 7% che voi prevedete, 90 euro a famiglia. Esatto. Grazie, mi dica. Grazie a voi, arrivederci. Grazie ad Alberto Biancardi, economista, appunto componente dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che oggi, pochi minuti fa, ha annunciato queste misure, il traffico e poi Borsa e Cipro. Il Consorzio Tutela Vini Oltre Po' Pavese vi presenta Strade in diretta. Buonasera, traffico intenso in uscita dalle grandi città, al momento la situazione più difficile si registra in uscita da Milano sulla 4 Milano-Brescia, dove ci sono code di 11 km tra Grate e Trezzo verso Brescia per un incidente che vede coinvolte due auto tra le corsie di marcia e sorpasso. 4 km di coda sull'autosole in direzione Roma per un incidente tra Firenze Certosa e Incisa. Sul raccordo anulare di Roma un'ascoltatrice segnala al numero verde 800 08 36 22 un veicolo in panne tra la Pontina e la Laurentina in carreggiata interna. Mentre a Roma in città segnaliamo code per un incidente sulla via Laurentina tra via di Acqua Acetosa e via di Castel di Leva. Sempre a Roma anticipiamo che questa notte dalle 22 alle 6 per lavori resterà chiuso il tratto urbano della 24 tra Sette Camini e il raccordo anulare in direzione Roma. È tutto, appuntamento tra mezz'ora. Focus Economia. Cipro o Cara, nel senso che adesso oggi i ciprioti, con loro anche l'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Buonasera Roberto. Roberto? Non è ancora in collegamento Roberto Bongiorni, allora lo facciamo dopo, adesso potremo fare la borsa, vediamo se arriva in collegamento Bongiorni, io aspetto. Dicevo, oggi i bancomat hanno riaperto con dei forti limiti, 300 euro giornalieri il tetto massimo per i prelievi bancomat agli sportelli bancari e un tetto dei bonifici pari a 5.000 euro mensili. I turisti non potranno portare con sé più di 1.000 euro in contanti, perché c'è il timore che poi qualche turista entri per poi portare i contanti, e vietato anche l'incasso degli assegni, sarà possibile versarli solo sul proprio conto. Il limite di 10.000 euro per i pagamenti delle tasse universitarie all'estero. Tutti i pagamenti per attività di import ed export dovranno essere approvati dalle autorità e i ciprioti dovranno dichiarare ogni somma di denaro ricevuto dall'estero. E poi la notizia che così a me ha colpito di più: sono arrivati a Cipro ieri dall'Europa 4 container contenenti in tutto 5 miliardi di euro in contanti, 5 miliardi di euro in contanti, per garantire liquidità alle banche. Roberto adesso è in collegamento. Roberto, buongiorno, buonasera. Sì, buonasera a tutti. Allora Roberto, anche tu hai fatto bancomat oggi? Ma io l'avevo fatto ieri, quindi sono a posto per ora. E le file agli sportelli, perché abbiamo visto insomma immagini, però sai, le immagini sono sempre, possono essere sempre fuorvianti. È vero che si sono create numerose code, oppure in realtà la situazione è stata più sotto controllo rispetto alle attese? Secondo me è colto perfettamente nel segno ancora una volta. Code veramente minime, 10 persone a coda, anche la Laiki e la Popular Bank. Quella che verrà chiusa e scorporata. Diciamo. Sì, sì. Esatto, tra l'altro all'entrata di Lidra Street, nella parte vecchia, via più battuta, sono paradossalmente, ironia della sorte, uno di fronte all'altro, queste due grandi sede, con decine, se non quasi 100 telecamere di questi giornalisti internazionali che aspettavano l'attacco alla diligenza, invece sono state file ordinate. C'erano più giornalisti che correntisti, mi stai dicendo? Sicuramente, non sto scherzando, tra fotografi, giornalisti, recettori e poliziotti. Poi alla fine sono arrivati un'ora prima quasi tutti extracomunitari asiatici, perché sono quelli che non hanno il bancomat e quindi devono prelevare dai loro piccoli depositi 300 euro di limite. E dopodiché qualche commerciante che doveva depositare attenzione gli assegni che aveva incassato nelle cose precedenti. Quindi tutto tranquillo, i ciprioti in questo senso hanno dato una dimostrazione di grande dignità e di grande ordine. Ecco, questo perché, come ricordavamo, i bancomat erano aperti anche nei giorni scorsi, quelle che erano chiuse nelle banche vere e proprie. La borsa riapre a questo punto quando? Martedì? Ma qui non si sa ancora bene, perché le notizie sono diverse. C'è chi dice ancora 7 giorni, c'è chi dice martedì. Insomma, qui è pieno di notizie, di smentite, quindi bisognerà aspettare probabilmente domani per avere delle indicazioni più precise. Ecco, su questo abbiamo visto però anche alcune cose strane, perché il presidente cipriota Nikos Anastasiades ha ringraziato i connazionali per il grande senso di responsabilità. Si è tagliato lo stipendio del 20% e fin qui tutto bene. Ha nominato il governo di Nicosia una commissione d'inchiesta sulla crisi bancaria e il ministro degli esteri cipriota Ioannis Kasoulidis ha detto: noi siamo un primo esperimento, lo ha detto al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha detto: non mi libero dell'impressione che a Cipro abbiamo vissuto un primo esperimento del modo in cui in futuro si dovranno difendere i soldi dei contribuenti da un impiego finalizzato al salvataggio delle banche. E riferendosi alle famose dichiarazioni di Aaron Dijsselbloem, che ha parlato di un modello Cipro per anche le altre banche europee, ha dovuto ritrattare, dice il ministro degli esteri cipriota, ma è vera la prima affermazione. Tra l'altro oggi Dijsselbloem è stato difeso anche da Schäuble. In Germania c'era un titolo su Handelsblatt, sulle pagine online: arrivati a Cipro 4 miliardi di euro della Bundesbank. Io non capisco come facciano a sapere che sono della Bundesbank. Adesso le prossime mosse, Roberto. Ma le prossime mosse è bisogna valutare come funzionerà questo programma di restrizione sulle transazioni, che non solo nell'Eurogruppo ma anche all'interno dell'Unione Europea è la prima volta che viene effettuato. Quindi le autorità cipriote dicono: vediamo giorno per giorno. È un po' ingenuo pensare che siano tolte o ridotte nei prossimi giorni, perché la fuga di capitali è pronta a inserirsi laddove si creano delle falle. Io parlavo ieri con un analista molto famoso, mi diceva: attenzione, se veramente le banche, singole banche, devono autorizzare le transazioni per chi deve importare beni, e Cipro importa tutto, quindi le imprese devono importare, se no non ci sarebbe benzina, non ci sarebbe nulla. Se veramente ogni singola banca deve, ogni singola agenzia deve autorizzare alcuni pagamenti di 20, 30, 100 mila euro, beh, qui si crea una falla in cui si possono mettere dentro tutti. Noi sappiamo benissimo che russi da una parte, cipriati dall'altra sono dei maestri, grazie alla loro esperienza decennale, più che decennale, di società di trading e di servizio in questo campo, magari a farci uscire a qualcosa d'altro. Quindi si aspettano queste restrizioni, però Sebastiano, la gente è ordinata, si è comportata bene, ma è molto arrabbiata. Continuano a ripetere: perché noi cittadini dobbiamo pagare con i nostri soldi, non possiamo prelevare i nostri soldi, non possiamo neanche andare all'estero, perché 1000 euro hanno ridotto dai 3000, sì, oggi 1000. 1000 euro per andare all'estero, come si fa? Uno mi diceva: come faccio ad andare negli Stati Uniti con 1000 euro? Insomma, è dura. La gente è molto arrabbiata. È dura. No, dura, sono perché... ciprioti, ma non sono mona, potrei dire. Sono ordinati e appunto hanno dimostrato grande senso di responsabilità, ma sono iper arrabbiati. Ci dite, allora i media stanno facendo disinformazione? No, noi abbiamo appena raccontato che non c'erano code agli sportelli bancari di Cipro. Abbiamo detto che c'erano più giornalisti che ciprioti, che correntisti. Più corretta informazione di così, cosa dobbiamo fare? Ancora, interessante quello che tu dicevi, cioè se poi la banca deve autorizzare le transazioni import-export e quindi tutti i pagamenti di attività di import-export, c'è il rischio che qualcuno crei, la spiego tutta, società fittizie di import e di export, in realtà non per con finti pagamenti, in realtà per far uscire fuori i soldi da Cipro, magari soldi russi, visto che là tanti sono, no? Eh sì, tra l'altro possiamo dirlo molto cautamente col condizionale, ma qui sono sempre più insistenti, fatemi dire chi le voci di chi, che i soldi russi, da quando sono state chiuse le banche, sono già usciti in parte. E come hanno fatto? E c'è chi dice, io uso il condizionale per stare molto attento, che sembra andrebbe verificata addirittura che durante la chiusura le sedi, ma va verificata la notizia, della Laiki Bank a Mosca in Inghilterra, che sono le due principali dove girano i soldi russi, sono addirittura rimaste aperte durante il periodo di chiusura. Io non ho trovato conferma, ma se ciò fosse vero, trasferire denaro da filiale a filiale sarebbe più facile. Però ripeto, sono notizie che girano, che circolano, ma non c'è nulla di sicuro, perché ho visto che già 2 miliardi e 7 avevamo un dato, adesso cerco di ritrovarlo, 2 miliardi e 7 erano volati via nel mese di febbraio, per 2 miliardi e 6, eccolo qua. Sono cresciuti, secondo la Banca Centrale di Cipro, da inizio anno sono usciti dal paese quasi 3 miliardi di euro. Faccio notare che Cipro ha un rapporto tra i depositi in banca e il PIL prodotto incredibile, il 716% del PIL. In America è il 91%, in Germania è il 300%, a Malta è il 790%, in Lussemburgo siamo addirittura al 2174%. La Svizzera, famosa per i depositi bancari, ha un rapporto tra depositi e PIL del 480%, cioè è nemmeno 5 volte superiore al PIL. Ti chiederei un ultimo commento rapidissimo, Roberto, sempre sulla vicenda Cipro. A questo punto la posizione invece sulla manovra vera e propria, il governo è sicuro che in questo modo riuscirà a ottenere 5 miliardi e 8 di cui ha bisogno per garantire i soldi europei? Sebastiano, probabilmente li ottiene, ma qui le cose non sono affatto chiare. Cipro, la Bank of Cyprus non è detto che sia capace di uscire dalla crisi, anche qua la voce è che ricorrente che rischia di andare in un'altra ristrutturazione e fare una brutta fine. Teniamo conto che la Bank of Cyprus, insieme ai depositi buoni, quelli sotto i 100.000 euro, quindi sì, garantiti, si è accollata anche quel prestito che l'ELA, il fondo di emergenza della Banca Centrale Europea, aveva dato alla Laiki di 9 miliardi, quindi magari incassa 7 miliardi di buoni asset positivi, sì, ma se ne addossa anche 9 miliardi di asset negativi, quindi c'è molta preoccupazione. E concludo, attenzione, non hanno ancora fatto bene i calcoli di quanti depositi sono usciti, ma se veramente sono usciti depositi russi e quelli che dicevi tu, la banca rischia poi di fare i conti, che non hanno ancora fatto bene, e trovarsi con molto meno rispetto a quanto pensava. Le 18:06 inizia la seconda parte di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni. L'ultima ora, Bersani, appunto il segretario del PD, è arrivato al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, vedremo se sarà un incontro brevissimo oppure, e quindi daremo aggiornamento in questo programma oppure nel corso dei prossimi programmi del GR. Dicevo, nel frattempo però è uscito anche il dato che riguarda i conti del Monte dei Paschi, perdite per, nel 2012, per 3 miliardi e 170 milioni di euro, ma soprattutto le rettifiche sui crediti effettuate su pressing anche della Banca d'Italia sono state pari a 2 miliardi e 670 milioni, di cui 1 miliardo e 400 milioni quasi solo nel quarto trimestre. E attendiamo altre notizie del Monte dei Paschi. Intanto vediamo però come si sono mossi i titoli in borsa, a partire a questo punto anche dal Monte dei Paschi. La notizia però è uscita sostanzialmente qualche minuto fa. Il titolo è invariato. Ricordo che domani la borsa sarà chiusa. Milano oggi è chiuso con un meno 0,1%, quindi invariata. Mezzo punto percentuale di guadagno per Parigi. Invariata a Francoforte, più 0,40 a Londra e più 0,20 il Dow Jones, quindi gli Stati Uniti in questo momento. Borsa, sì. Non mi fa sorridere un ascoltatore che dice a 4 container anche per il Monte dei Paschi, riferendosi ai container arrivati a Cipro contenenti 4 miliardi di euro. Che servono per la liquidità delle banche. Comunque, Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Tra l'altro oggi l'S&P 500, quindi l'indice di New York, ha toccato un nuovo record a un certo momento, adesso guadagna lo 0,17%, ha toccato la chiusura più alta, il punto più alto della sua storia, risaliva al 2007, quindi l'anno prima dello scoppio definitivo della crisi, a 1565 punti, appunto oggi li ha seppur di poco superati, a dimostrazione che appunto negli Stati Uniti la borsa continua a macinare nuovi record rispetto a quanto non avvenga in Europa. 1565 punti fissi adesso, quindi sempre a record. Paolo, Monte dei Paschi, nessuna reazione perché non c'erano ancora i conti, però oggi abbiamo visto recuperare in generale le banche, per cui il dato su Monte dei Paschi è negativo, cioè essere invariati in un giorno in cui le banche recuperano è chiaramente una cosa negativa. Popolare Emilia Romagna più 3,77, UbiBanca più 3,40 e questi sono i rialzi principali. Unicredit più 1,30, Intesa San Paolo più 0,70, Banco Popolare più 0,50%. Le banche. Sì, certo, su MPS bisogna dire che i conti che appunto sono arrivati in mercato chiuso sono molto peggiori delle attese per quanto riguarda la perdita appunto di 13,7 miliardi, si attendevano circa 2 miliardi, questo è dovuto a una pulizia di bilancio più corposa del previsto, quindi bisogna vedere martedì se il mercato si concentrerà sui conti peggiori o sul fatto che avendo fatto una pulizia di bilancio più rigorosa forse ci saranno meno sorprese negative in futuro. Comunque sì, in attesa dei conti il mercato non si è posizionato su MPS, che infatti è chiuso in variata, mentre la maggior parte delle altre banche ha recuperato terreno dopo essere stata molto penalizzata nelle ultime sedute. Lo spread sul finale oggi è tornato sui livelli di ieri, quindi anche qui non ci sono state grosse variazioni, comunque appunto i principali titoli hanno guadagnato terreno. L'eccezione, come dicevi tu, era BPM, che ha chiuso in calo dello 0,9%, ma bisogna dire che di recente è andata molto bene e grazie al progetto di trasformazione in società per azioni, quindi prima del weekend pasquale qualcuno ha preferito realizzare parte dei guadagni fatti. Apro una brevissima parentesi, ci ha scritto un ascoltatore che lavora in banca, molti in questo orario sono anche i dipendenti di banca che ci ascoltano e escono, e dicono a proposito della crisi di Cipro che da una settimana i clienti liquidi con più di 100.000 euro sul conto corrente chiedono di aprire conti correnti doppi o tripli per spezzare l'ammontare, no? E avere massimo 99.000 euro in banca, che è la soglia protetta dalla banca, garantita dalla Banca d'Italia. Secondo me questo è un effetto Cipro, però se qualche altro dipendente di banca o direttore di banca ci vuole scrivere che ha avuto identiche richieste, mi sembra un'informazione interessante. Comunque andiamo avanti per quello che riguarda i titoli. Telecom Italia, che aveva perso parecchio in tre sedute, aveva perso l'11%, oggi ha tentato un recupero più 0,90%. Esattamente, aveva perso appunto in tre sedute l'11,5%, ieri ricordiamo è andata molto male sulla notizia, sulle indiscrezioni di contratti tra i soci, in particolare di una richiesta da parte di Marco Fossati di votare una fiducia al management che è stata respinta questa richiesta dal presidente Franco Bernabè, mentre in precedenza i titoli erano stati penalizzati da alcune banche d'affari che avevano tagliato i giudizi, e oggi recupera parte del terreno appunto visto che oggi è l'ultima seduta prima di un lungo weekend, quello di Pasqua, molti movimenti sono stati appunto tecnici dovuti a ricoperture o a realizzi in seguito a movimenti nei giorni precedenti. Ancora per quello che riguarda il Monte dei Paschi, sto leggendo adesso un'ansa appena battuta, e cioè il portafoglio derivati del Monte dei Paschi a fine 2012 ammonta a quasi 39 miliardi di euro, in aumento di un miliardo rispetto al precedente esercizio. L'esposizione però è concentrata sui titoli di Stato italiani e nel quarto trimestre ha beneficiato della ripresa del valore dei titoli e dello spread in calo. Questa è un'altra nota che arriva dai conti del Monte dei Paschi. Andiamo invece su chi oggi ha perso. Prysmian, l'ex Pirelli Cavi meno 3%, Buzzi Unice meno 2,70%, Mediaset meno 2,40%, Finmeccanica meno 1,90, Steamark Electronics meno 1,80, così come l'Automatica meno 1,60 e Ansaldo STS meno 1,5. Direi che su Mediaset e Ansaldo possiamo parlare anche di prese di beneficio, cioè di chi ha venduto dopo i forti rialzi di ieri, no? Esattamente, sì, Mediaset ricordiamo dopo i conti in cui gli investitori hanno visto alcuni dati positivi soprattutto sul fronte del debito, del taglio dei costi, mentre Ansaldo sulla più speculativa su possibili operazioni di fusione e acquisizione in arrivo, oggi invece sono appunto arrivati i realizzi. Allora, mi stanno arrivando una marea di messaggi dopo quello dell'ascoltatore che lavora in banca, che diceva che ha molti clienti che gli chiedono di aprire due o tre conti. Ha ragione chi ricorda che non funziona aprire due conti, tre conti, quattro conti, cioè è per il singolo correntista 100.000 euro, tu puoi avere anche tre conti da 300.000 garantiti, sono 100.000, dovresti averli su due banche diverse. Scrive un altro ascoltatore che nella sua banca dove lavora hanno finito le cassette di sicurezza. E poi un altro dipendente di banca scrive: oggi un nostro cliente è passato a ritirare 300.000 euro in contanti spaventato da Cipro e Company. Un altro scrive che chiedono ai clienti di investire in bond in valuta estera forte, ma BEI e BERS. Io insomma, non lo dico perché avremo anche dei casi particolari, no? però la dicono lunga sul rischio panico che si può scatenare alla faccia anche delle dichiarazioni di Semblem. Io l'adoro quest'uomo. Chissà dove va in vacanza quest'estate. Comunque andiamo avanti, migliori e peggiori. Cipro no, Grecia no, Italia no, Spagna no, gli tocca stare in Olanda quest'estate, che non è brutta, ci mancherebbe. Andiamo avanti, Basic Net più 11%, Compagnia della Ruota più 9,41%, CSP più 7,60%, Enertronica più 7,14%, Ace Gas più 7,40%, questi i più forti in assoluto. In calo invece Gemina sulle risparmi non convertibili del 5,50% e il gruppo Rizzoli Corriere della Sera meno 4,60%. Nuove tensioni su Rizzoli. Ieri il CDA ha esaminato e approvato i conti preliminari 2012 e soprattutto ha dato via libera all'aumento di capitale fino a 600 milioni. I conti sono tutti in calo e l'ultima riga di bilancio è in decisa perdita, anche se appunto non sono ancora i conti definitivi. Oggi in borsa il titolo ha perso il 3,01% e il 4,63% sulle risparmio, e si attendono appunto i conti definitivi, però diciamo che non ci saranno grosse sorprese positive, soprattutto l'aumento di capitale sembra molto diluitivo per gli attuali soci. Inoltre alcuni soci forti hanno dubbi sulla deriva o meno la ricapitalizzazione, quindi naturalmente non sono notizie positive per il mercato. Nel frattempo vado avanti sul doppio binario, anche altri direttori di banca ci stanno scrivendo, richieste assurde di frazionamento, ha ragione, sono assurde, perché non è che la Banca d'Italia ti protegga se tu lo spezzi in 3-4, garantisce 100.000, fino a 100.000 del correntista. Un altro direttore di banca scrive che un cliente ha richiesto un trasferimento titoli sul deposito titoli del marito per sua Mari Saldi, e andiamo avanti così. Un altro direttore di banca scrive che molti chiedono e sono preoccupati da Cipro e ora dalla Slovenia, qualcuno esegue e abbassa il saldo sotto i 100.000 euro. Eccoci qua. No, io vorrei dirlo a Disemblem, con tutte queste dichiarazioni, che Cipro è un modello per altre banche in crisi in Europa. Sto guardando molti altri messaggi che stanno arrivando, molti fanno i pluriconti anche vendendo qualche obbligazione, anagrafe più intestatari, marito e moglie, da soli, uno ai due figli, ha diviso 500.000 euro con 5 anagrafiche diverse proprio oggi in banca. Vabbè, si fa per dire. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, il traffico, e poi parliamo di una cosa bella, bella allegra, come la nuova tassa sui rifiuti, la Tarens. Ora a giugno qui rischiamo, devo dare ragione al segretario CGIL Camusso, che l'ha detto ieri, rischiamo veramente una tempesta perfetta, perché parte l'aumento dell'IVA, se non cambia le cose. C'è la nuova Tarens e c'è di nuovo l'IMU, se non mi ricordo male. Cioè, prima di andare in vacanza, diciamo, ci prepariamo a questo boom dei consumi estivi, grazie alle tre streghe, chiamiamole così, fiscali e di prelievo fiscale di giugno. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi anche la pagina di Focus Economia su Facebook. Poco fa il capo economista e vicepresidente dell'Ocse, Pier Carlo Padoan, ha detto: nessun pericolo per Italia, contagio per Italia e Spagna, preoccupati invece sulla Slovenia, ma ce ne siamo già occupati ieri delle banche. E continuano ad arrivare messaggi di dipendenti o direttori di banca. Giustamente un ascoltatore scrive: ma come si fa ad avere 100.000 euro nel conto corrente? Cioè, c'è chi ce l'ha. Un altro è messo meglio, si fa per dire, perché da buttarite dice: io ho solo 1.900 euro nel conto. Ma in realtà moltissimi direttori dipendenti di banca ci stanno scrivendo, perché arrivano queste richieste. E ancora di praticamente molte richieste di investimenti in valuta forte, e vendono euro per acquistare franchi svizzeri e dollari americani. Vabbè. Allora, dicevo, le tre streghe in borsa, le tre streghe è una coincidenza, the three witches, che va a penalizzare i mercati. Qui le tre streghe sono rappresentate a giugno da l'IMU e vabbè, l'IVA, che se ho capito bene aumenterà di un punto percentuale, e poi l'applicazione della Tares, la nuova tassa sui rifiuti. Ora la Confcommercio oggi in una nota ha detto: attenzione, comporterà un rincaro medio del 290% e per alcune attività incrementi dei costi superiori al 400% come la ristorazione, o addirittura al 600% come l'ortofrutta e le discoteche. Il Sole 24 Ore ha fatto una simulazione oggi sul quotidiano di quanto aumenterà per le famiglie, in realtà, oltre che per alcune imprese, la TARES. E quando parliamo di tasse, di TARES, una è la voce che si leva con forza. Gianni Trovati, bello ruolo che hai, buonasera. Buonasera a voi. Allora, single in monolocale da 40 metri quadrati, che poverino già è single in un monolocale da 40 metri quadrati, si vede pure aumentare la TARES. La TARSU costava 79 euro, la TARES costerà 96 euro, vedete poco, beh, è il 20% in più. Il resto? Il resto fa di questa TARES, come dicevi tu, la sorella gemella dell'IMU, nel senso che non solo appunto il calendario è quello uguale, ma la graduazione degli aumenti è sostanzialmente analoga a quella dell'IMU, per cui chi è stato bastonato di più l'anno scorso dall'IMU sarà bastonato di più quest'anno dalla TARES, perché già l'anno scorso l'IMU aveva colpito in particolare i negozi, aveva colpito tutti, però era stata particolarmente, diciamo, severa nei confronti dei negozi per una questione che sono fuori, diciamo, dall'ambito IRPEF, quindi non beneficiavano dell'addio all'IRPEF sui redditi fondiari, quindi raddoppiando, triplicando in qualche caso l'imposta rispetto alla vecchia ICI. Nel caso della TARES, come appunto accennavamo, ci sono rincari ancora più importanti, fino a 6 volte, ma anche per le famiglie intorno al 10-15-20%, perché oltre ai rifiuti c'è sempre un'altra cosa che si chiama sempre TARES, quindi questo in nome della chiarezza, diciamo, del sistema fiscale, ma non serve per i rifiuti, ma serve per finanziare i cosiddetti servizi indivisibili, l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade e così via. C'è la TARES 1 e la TARES 2. La TARES 1 e la TARES 2, sì, così il sistema fiscale è più chiaro e più preciso. Uno giustamente si potrebbe chiedere se questi servizi cosiddetti indivisibili, cioè appunto la manutenzione delle strade, il verde pubblico, l'illuminazione, non fossero già finanziati dall'IMU, cioè già l'IMU servirebbe a fare, sì, questa cosa. Faccio notare che c'è anche l'IRPEF addizionale, regionale, la comunale. Risposta è positiva, no. Certo, sì. Sono gli stessi servizi che dovevano essere finanziati anche dalle altre tasse. C'è da dire, per amore di verità, che questi soldi, cioè la TARES per i servizi indivisibili dei comuni, non va ai comuni, ma di fatto va allo Stato, che ha già fatto un taglio equivalente ai fondi dei comuni. È un giochino delle tre carte abbastanza semplice, con cui si fa pensare con il nome con il nome dell'imposta che uno vada a finanziare una certa cosa. In realtà serve a tutt'altro. Del resto era già successo anche l'anno scorso con l'IMU, che si chiamava e si chiama tuttora imposta municipale, ma per metà finiva allo Stato, quindi municipale non era. Il problema è che diciamo così, il servizio rifiuti non sta funzionando benissimo e rischia un blocco nelle prossime settimane, perché il governo sostanzialmente nel Consiglio dei Ministri di ieri ha deciso di non decidere e quindi ha lasciato le cose come stanno. È stato rinviato a luglio il pagamento della prima rata. Questo non dà nessun beneficio ai cittadini, perché il conto è sempre quello. Il problema è che le imprese lavoreranno fino ad agosto-settembre, cioè quando questa prima rata la incassi effettivamente, lavoreranno gratis, quindi sono in crisi di liquidità, quindi rischiano di non pagare i fornitori, e questo è un effetto curioso se si pensa che proprio in questi giorni c'è tutto il dibattito su come sbloccare i vecchi debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori. Mentre cerchiamo di sbloccare i vecchi debiti con il decreto, il ministro Grilli, eccetera, creiamo da un altro versante le condizioni perché si creino nuovi debiti delle imprese collegate alla PA, spesso sono imprese interamente dei comuni, nei confronti dei loro fornitori. Un pasticcio che è stato creato non dal governo tecnico, anche questo per amore di verità, diciamo, ma è stato creato dal Parlamento in maniera bipartisan, perché con un decreto che doveva risolvere l'emergenza rifiuti in Campania, si è creato questo rischio di emergenza rifiuti nazionale perché si è voluto spostare il pagamento della prima rata dopo le elezioni politiche di febbraio, e i risultati ci dicono che tanta cautela non è servita a molto, e anche dopo le amministrative di maggio. A maggio si vota in 700 e rotti comuni, tra cui Roma, Catania, insomma comuni importanti, lo si è slittato dopo l'estate, così si rende contemporanea all'acconto IMU, e a dicembre sarà contemporaneo il saldo IMU e il saldo TARES, che come abbiamo visto sono importi abbastanza importanti. Cioè, diciamolo tutto, per un motivo di consenso elettorale, per non avere gli elettori arrabbiati, mi sembra, come dicevi tu, che sia servito a poco, in realtà rischiamo di creare una tempesta perfetta dal punto di vista dei pagamenti. Esattamente sì, perché appunto le imprese sono in crisi di liquidità, non possono chiedere aiuto ai comuni perché già i comuni sono bloccati dai tagli. Patto di stabilità interna. La cosa curiosa, così giusto per gossip parlamentare, è che contemporaneamente all'approvazione del decreto che spostava a luglio per ragioni secondo noi elettorali il pagamento, il Parlamento ha approvato un ordine del giorno per cambiare la stessa data che era stata approvata il giorno stesso dallo stesso Parlamento. Insomma, erano in stato un po' agitato, diciamo, non era chiarissima la strategia. Come mai però oggi la Confcommercio dice sulla TARSU, torniamo sulla TARES, che saranno colpiti particolarmente, perché le stime che voi avete fatto, parlo di un capannone da 2000 metri quadrati. Mi dice anche se è vuoto, sì, anche se vuoto, immagino. Sì, se, allora, chiaramente se è vuoto, inattivo, eccetera, se inattivo, non produce, no, rifiuti, però, cioè, amen. Però se è vuoto ma produce rifiuti per qualche motivo di manutenzione, sì. No, ma dico, come mai per un capannone industriale o un negozio non di alimentari l'aumento va dal 12% per il capannone e l'8,7% per il negozio di non alimentari, mentre oggi la Confcommercio dice che, attenzione, per alcune categorie, ristorazione e ortofrutta e discoteche, sarà così. Perché sono le categorie che hanno una produzione più intensa di rifiuti. Siccome la TARSU sostanzialmente differenziava le aliquote, ma in modo abbastanza rigido, abbastanza fisso, non misurava puntualmente la tassa da pagare sulla base della quantità di rifiuti prodotta, nemmeno la TARES lo fa, però ne tiene più conto. Per cui le categorie di negozi che sono a più alta intensità di produzione di rifiuti, pensiamo a un fioraio, la pizza al taglio, eccetera, eccetera, hanno un rincaro maggiore rispetto a altre tipologie che invece producono meno rifiuti o hanno una produzione del tutto normale. Sì, adesso io capisco che sia una tassa sui rifiuti, quindi deve essere in proporzione a quanti rifiuti produci, però è anche chiaro che aumentare, come stima la Confcommercio, del 600%, del 400%... Dopo che l'IMU ti è aumentata l'anno scorso, esatto, del 300%... Ma su alcune categorie di lavoratori, tu citavi i fiorai, adesso Massimo, non so quanti fiorai miliardari ci siano in giro, cioè la pizza al taglio, non so quanti proprietari di pizzerie al taglio siano miliardari, per cui tu vai a colpire categorie che non è che stiano navigando nell'oro come attività produttiva. Certo, producono un po' più di rifiuti. Sì, no, ma il punto sostanziale è che in un periodo di contrazione dei consumi e quindi di grande difficoltà economica proprio per queste tipologie, c'è un 1-2 tra 2012 e 2013 di botte fiscali che rischia di mettere in ginocchio appunto l'IVA, poi contrarrà ulteriormente i consumi. Bene, bene, non mi hai fatto divertire, Gianni Trovati, hai reso il programma troppo serio, come dicono alcuni ascoltatori, per quindi la chiudiamo qui. Grazie al collega del Sole 24 Ore, noi ci risentiamo domani e siamo in diretta dalle 17 in poi. Ricordo che la borsa è chiusa, chi è già partito per Pasqua, buona Pasqua, a tutti gli altri buona serata, ci rivediamo domani, ci risentiamo domani. Radio 24, la passione si sente.